Effetto giorno di Simone Spezia. Cala la disoccupazione all'11,5% e scende anche quella giovanile, un dato che però sconta l'aumento del numero di inattivi. A Budrio, dopo l'assassinio del barista, si cerca un ex militare dell'Est con precedenti per rapine. Nel ferrarese resta alta la polemica sulla legittima difesa. Ed è stato arrestato un 23enne per l'uccisione di un ragazzo fuori da una discoteca a Brescia. Ha confessato. Serbia vince l'attuale premier Vučić alle presidenziali, alleato della Russia ma europeista convinto, passa al primo turno. PD nei circoli, vittoria netta di Renzi con quasi il 70% delle preferenze, ora tocca agli elettori delle primarie. Calcio ieri pari tra Napoli e Juve, questa sera in campo Inter-Sampdoria, il mondo del tennis intanto celebra l'ennesimo trionfo di Federer. Una buona giornata da Simone Spezia, bentornati ad Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, il punto metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo, 349-238-6666 per i vostri sms e per i messaggi su WhatsApp, e c'è anche la nostra pagina Facebook dalla quale andiamo in diretta, www.facebook.com/effettogiorno, così come andiamo in diretta video, anche da quella di Radio 24 per una puntata del lunedì che come sapete è un po' più breve, il martedì, dal martedì al venerdì siamo in onda regolarmente, la puntata del lunedì è un po' più breve. Dunque, in apertura andiamo ai dati sull'occupazione, dovremmo essere in grado di collegarci con Vincenzo Miglietta da Roma. Vincenzo, buongiorno, vai. Sì, buongiorno Simone. Dati come sempre quelli di inizio mese, provvisori da parte dell'Istat ma comunque indicativi sull'andamento del mondo del lavoro. Il tasso di disoccupazione è sceso allora a febbraio all'11,5%, in calo di 0,3 punti percentuali su gennaio e di 0,2 punti rispetto a febbraio dello scorso anno. I disoccupati scendono sotto quota 3 milioni, per la precisione 2.984.000, in calo di 83.000 unità su gennaio e di 18.000 sul 2016. Stabili invece gli occupati su gennaio, mentre segnano una crescita di 294.000 unità nell'anno. Buone notizie quindi per i giovani, per la fascia d'età 15-24 anni. L'Istituto di Statistica indica una flessione della disoccupazione con il relativo tasso che scende al 35,2%, meno 1,7% su gennaio, meno 3,6% sul 2016. Soddisfazione da parte del governo, cala la disoccupazione anche tra i giovani, commenta il Presidente del Consiglio Gentiloni, che aggiunge l'impegno per le riforme ottiene risultati. In tre anni oltre 700.000 occupati in più, dice con soddisfazione il ministro del lavoro Poletti. Critiche però dalle opposizioni, il mercato del lavoro è stagnante, dicono dal centrodestra, gli inoccupati non diminuiscono. È tutto, linea allo studio. Grazie dunque a Vincenzo Miglietta per questo aggiornamento. Resta in primo piano in queste ore, passiamo alla cronaca, la vicenda di Budrio, dove un barista è stato ucciso in quello che pare essere un tentativo di rapina il servizio. C'è un sospettato per l'omicidio di Davide Fabbri. Si tratta di un ex militare dell'Est Europa, ricercato anche per altri colpi commessi in provincia di Ferrara. La pistola utilizzata per uccidere il barista 52enne di Budrio potrebbe essere quella che mercoledì scorso era stata rapinata da un uomo armato di un fucile da caccia ad una guardia giurata nel ferrarese. Secondo i carabinieri, il calibro sarebbe compatibile con la pistola con cui il rapinatore ha colpito al petto Fabbri, che era riuscito a strappargli di mano il fucile da caccia con cui il malvivente lo aveva minacciato per farsi consegnare l'incasso della serata. Il delitto ha subito riacceso il dibattito politico sulla legittima difesa. Ad intervenire è anche il ministro per gli affari regionali Costa, che in un'intervista invita a modificare la legge oggi in vigore in modo che chi subisce un'aggressione sappia in modo chiaro cosa può fare e cosa non può fare per difendersi. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E polemiche sulla legittima difesa a parte, il tema della sicurezza resta centrale per i pubblici esercizi, ci dice Lino Stoppani, presidente di FIPE, la federazione che li raccoglie. Sentiamo. Inammissibile, insomma, che gente che lavora dalla mattina alla sera, che fa fatica, magari con dei ritorni economici modesti, come sono attività di pubblico esercizio, che sono anche un presidio sociale nelle nostre città, insomma, siano oggetto sistematico, continuo di atti di criminalità come quello che è successo a Budrio, insomma. E qui a noi non piace assegnare colpe o scaricare responsabilità, però evidentemente c'è un problema di sicurezza, che tocca forse il presidio del territorio, che tocca forse gli aspetti di prevenzione, tocca anche gli aspetti di giustizia. C'è bisogno di qualche intervento normativo che dia sicurezza anche a chi è chiamato ad operare per prevenire questi fenomeni. Intervento normativo anche in termini di modifica delle norme sulla legittima difesa, secondo lei? È chiaro che c'è qualche debolezza che va ripianata, perché, ripeto, è sconfortante vedere la facilità e anche l'impunità con la quale poi succedono queste cose, e con che si finiscono poi e si esauriscono con qualche dichiarazione di cordoglio e vicinanza alla famiglia, lasciando poi irrisolto il vero problema, che è un problema di sicurezza che va gestito anche dando alle forze dell'ordine quelli che sono tutti gli strumenti per prevenire e anticipare queste situazioni, insomma, ci sono. Restiamo sulla cronaca, un altro caso di una donna uccisa dal compagno. Noi insieme appassionatamente, così aveva scritto Patrizia Formica nel suo ultimo post su Facebook ieri sera, prima di essere uccisa a Caltagirone. Ad accoltellarla nel sonno proprio il suo convivente Salvatore Pirronello, 53 anni, nella casa dove i due, entrambi con precedenti relazioni alle spalle, da anni vivevano. Per tutta la domenica la 47enne, madre di due figli, aveva raccontato su Facebook la sua bellissima giornata, pubblicando foto e filmati insieme al convivente, parenti ed amici. Cosa sia successo poi dovrà accertarlo la procura di Caltagirone, che ha aperto un'inchiesta per far luce anche sul movente del delitto. Pirronello infatti ai carabinieri ha raccontato di essere stato colto da un raptus. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ha fatto molto discutere nelle scorse ore la vicenda della ragazza costretta a rasarsi a zero dai genitori per i suoi atteggiamenti troppo occidentali. Ebbene, la versione iniziale viene ora messa in dubbio. Questa storia del velo non è vera, ha rovinato la mia famiglia, rivoglio mia figlia, non ha mai dormito una notte lontana da sua madre. Ali Razzab, il padre della ragazzina di 14 anni, tolta alla famiglia che vive a Bologna ma è originaria del Bangladesh, perché avrebbe raccontato agli insegnanti che le veniva imposto il velo ed era stata rasata dalla madre per questo, è disperato. Meccanico, 40 anni, vive in Italia dal 2004, spiega fino allo sfinimento che la minore delle sue tre figlie non ha detto la verità. No, velo non è obbligatorio, velo non fa niente, velo. Problema di pidocchi su testa, per quella che è tagliato per quelli, solo per pidocchi. Per quella lei ha detto va bene, mamma, taglia. Ora Ali Razzab teme che anche le sue altre due figlie minorenni possano essere affidate a una comunità protetta. Forse già in settimana si terrà al Tribunale per i minorenni di Bologna l'udienza sul ricorso della procura che aveva disposto l'allontanamento della ragazzina e accusato i due genitori di maltrattamenti. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ci spostiamo a Melendugno, dove prosegue la protesta No Tap, nel giorno che dovrebbe segnare, Domenico Palmiotti in diretta a Melendugno, che dovrebbe segnare la fine dell'espianto degli olivi sostanzialmente, no? Dovrebbe segnare, però di fatto i lavori sono fermi perché il maltempo sta imperversando su Melendugno, su tutto il Salento, quindi rendendo difficile, problematica la ripresa dei lavori. In ogni caso i lavori non sarebbero potuti riprendere anche se ci fosse stato bel tempo, perché ci sono centinaia di manifestanti questa mattina, nonostante la pioggia, a presidiare il cantiere del microtunnel del gasdotto, proprio per evitare che non accada nulla e nulla si muova. Ci sono da espiantare ancora una ventina di ulivi, perché circa 180 sono stati già portati via, e ci sono da sistemare quelli che espiantati sono ancora a bordo sui camion, ma la protesta appunto impedisce che si faccia qualunque cosa. Cresce la mobilitazione nel Salento, stamattina ci sono i parlamentari di Sinistra Italiana, ieri c'erano i 5 Stelle, sia consiglieri regionali della Puglia che deputati, e si arricchisce anche di firme l'appello al presidente Mattarella e al premier Gentiloni per trovare una diversa collocazione del gasdotto. 80 sindaci chiedono appunto che i vertici dello Stato e dell'esecutivo prendano in considerazione le ragioni del Salento. Vi restituisco la linea. Grazie dunque anche a Domenico Palmiotti per questo aggiornamento. Restiamo sulla cronaca italiana, perché dopo il caso di Emanuele, un'altra morte davanti ad un locale notturno in una rissa. Oggi l'arresto del presunto assassino di un ragazzo di origine colombiana. Italiano, 23 anni, con piccoli precedenti penali, rintracciato dalla polizia, alla fine ha confessato. È stato lui ad aggredire con un coltello il 21enne colombiano davanti ad una discoteca a Brescia all'alba di domenica. Il ragazzo è morto poche ore dopo in ospedale. I due non si conoscevano. Il colombiano, in Italia da quando era un bambino, era fuori dal locale con la fidanzata e con loro c'erano alcuni amici. Niente droga, niente branco, la sua colpa sarebbe invece stata qualche parola a difesa della fidanzata e una reazione di troppo. Un italiano di carnagione chiara ha raccontato subito alla polizia la ragazza, si è intromesso dicendo qualcosa su di me e allora il mio fidanzato lo ha spintonato e gli ha detto di andarsene. Poi è comparso il coltello e il ragazzo si è accasciato in un attimo, ha raccontato ancora. Da lì sono partiti gli interrogatori, sentiti gli amici e tutti quelli che si trovavano nelle vicinanze. È emerso anche un nome e un filmato ripreso dalle telecamere di un bar vicino. Sono scattate le ricerche e il 23enne è stato rintracciato. A quel punto ha confessato tutto. Anna Migliorati, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Siamo alla politica, che ci parla oggi soprattutto del Partito Democratico, della chiusura del voto nei circoli. Elisabetta Fiorito, ampia vittoria di Renzi, no? Sì, e Matteo Renzi ringrazia per la vittoria alle primarie nei circoli PD. Simone, l'affluenza supera il 59% degli iscritti, Renzi è al primo posto con il 68%, a Palermo raggiunge addirittura l'82% e a Roma conquista 13 municipi su 15. Secondo Andrea Orlando con il 25%, mentre Michele Emiliano si ferma al 6%. Il dato finale parla quindi di 266.000 votanti, che supera quello del precedente congresso PD. Bilancio positivo per il presidente Matteo Orfini. La mozione Orlando contesta i risultati, ma il ministro della giustizia è soddisfatto perché la candidatura è arrivata nelle ultime ore. La partita è ancora aperta, dice Orlando, e si deciderà nelle primarie aperte del 30 aprile. Dal canto suo il segretario uscente e vincente Renzi parla di una vittoria larga e bella. Alla fine del primo round afferma: abbiamo ottenuto i 2/3 dei voti, adesso aspettiamo i dati ufficiali. Sentirsi accercato da tanto affetto e condivisione è sinceramente molto toccante dal punto di vista umano, prima ancora che politico. Queste quindi le parole di Renzi. A te, Simone. Grazie dunque ad Elisabetta Fiorito. Andiamo in Serbia adesso, dopo lo spoglio del 91% delle schede, il premier Aleksandar Vučić si conferma vincitore delle presidenziali già al primo turno con il 55,13% dei voti. Al secondo posto Saša Janković con il 16,26%. L'analisi di Gigi Donelli. 25 anni dopo la dissoluzione della Jugoslavia, Aleksandar Vučić è presidente acclamato con oltre il 50% dei voti al primo turno. Primo ministro in carica, dovrà lui stesso decidere chi prenderà il suo posto e con quale ruolo. Vučić è l'uomo degli adattamenti, da quando era cronista per una televisione di Pale durante la guerra civile. Ha scelto poi la politica partendo dagli ultranazionalisti del partito radicale serbo di Vojislav Šešelj, che nella sfida presidenziale di domenica non ha raggiunto un decimo dei suoi voti. Accusato di tradire la causa cetnica, ha colto il tempo della storia negli anni 2000, lasciando l'ex mentore e creando il suo partito progressista serbo, che oggi guarda con pragmatismo all'Europa, ma sogna il modello Putin, cui lo lega la causa slava e l'opposizione alla separazione del Kosovo, ferita dolorosa per Belgrado quanto per Mosca. Chiunque sarà il presidente del Consiglio, appare comunque certo che i prossimi 4 anni vedranno il governo di un solo partito e il comando di un leader molto abile che non ha ancora 50 anni e sembra deciso a traghettare Belgrado oltre la memoria sanguinosa e lacerante di un quarto di secolo fa. Gigi Donelli, Radio 24, Sole 24 Ore. In Parlamento oggi una mattinata dedicata alla memoria di Giulio Regeni. Alessandra Schepisi sta seguendo e ha seguito la conferenza stampa dei genitori. Alessandra, buongiorno. Sì, buongiorno. La morte di Giulio Regeni è un omicidio di Stato. Questo è il titolo della conferenza stampa che si è tenuta questa mattina qui in Senato e che sintetizza l'atto di accusa rinnovato ad un anno di distanza dai genitori del ricercatore friulano. Il 3 aprile scorso, infatti, è quando per la prima volta Paolo e Claudio Regeni parlarono pubblicamente, lo fecero a 2 mesi di distanza dal ritrovamento del corpo massacrato del loro figlio lungo la strada che collega il Cairo ad Alessandria. E dunque 3 febbraio 2016, 3 aprile 2017, 14 mesi mesi sono passati con indagini che ancora oggi non hanno portato alla verità, anche se alcuni passi in avanti sono stati compiuti. Continuiamo a confidare nelle istituzioni, ha detto Claudio Regeni, che chiede giustizia ma anche segnali. Il nostro ambasciatore non torni al Cairo, dice, così come quelli di altri paesi, mentre la mamma di Giulio rivolge un appello al Papa che a fine mese si recherà in Egitto affinché in quell'occasione lo ricordi, e poi parla di 14 mesi surreali. Sentiamo. Noi non possiamo abbassare mai la guardia, perché abbiamo scelto di essere dentro le cose e perché abbiamo capito che la richiesta di verità per Giulio non è solo un proclamare vogliamo verità e giustizia. Per volere la verità bisogna agire, e questo richiede una collaborazione costante. Ho amici che leggono le agenzie, ho imparato a tradurre, vabbè, con Google dall'arabo. Noi famiglia normale italiana siamo immersi in questo continuamente. E questo dunque il racconto della madre di Giulio Regeni. Ringraziamo Alessandra Schepisi per questo racconto appunto dal Parlamento. A chiudere, prima di andare nella pausa per il traffico, ci occupiamo di sport. Un fine settimana tra calcio e tennis, fondamentalmente, con il calcio in primo piano per il Napoli-Juve di ieri. Questa sera tra l'altro l'Inter in campo con la Sampdoria. Carlo Genta, ciao. Ciao Simone, buongiorno a tutti. Hai parlato ora di Parlamento, direi che gli extraparlamentari che stavano ieri a San Paolo sono stati molto meglio di certi parlamentari che abbiamo sentito in settimana, sì. Parlamentari o sindaci o autorità, insomma. Splendida serata di calcio, splendida cornice, normali fischi di Higuain, ma ci mancherebbe altro che non fosse così. Bella partita di calcio, soprattutto da parte del Napoli. Juve in vantaggio con Khedira, poi un po' impigrita, sì, la mia sensazione è che già da ieri, forse da prima, stia facendo le prove generali per il Barcellona. Giocava contro una squadra che tiki-taccheggia, un po' come il Barcellona, e non è uscita benissimo la Juventus, non ha giocato una grande partita. Comunque ha il campionato in tasca, più 6 sulla Roma. Da matematiche speranze ai giallorossi col confronto diretto in casa, ma direi che è una Juventus che ha il campionato in tasca, in mano sostanzialmente, cioè, o in tasca, come dici tu. Senti Carlo, stasera l'Inter che insomma potrebbe vedere l'Europa, per così dire, no? L'Inter potrebbe vedere quell'Europa che ieri invece il Milan guarderà con il binocolo dopo l'1-1 di Pescara. L'Inter gioca a Genova contro la Sampdoria, è un'avversaria non facile, specialmente in casa, però l'Inter deve provare a rimanere agganciata a quel carro che è guidato, per quanto riguarda le inseguitrici, dalla Lazio che non si ferma più, dall'Atalanta che era fatto la manita a Preziosi e al Genoa, ambiente in ebollizione. Serve una vittoria, non ci sono altri risultati per continuare questa che è una delle poche battaglie ancora interessanti sportivamente parlando, ovviamente, dell'intero campionato. A chiudere in 20 secondi, Carlo, la magia di Federer. La magia di Federer Nadal, tra l'altro. Ascolta Simone, è un momento in cui ci sentiamo tutti un po' più giovani, cioè dobbiamo ringraziare questi due signori che ci hanno levato qualche anno, almeno quando guardiamo il tennis, no? Sembra di essere tornati indietro di 6-7 anni, ci sentiamo tutti un po' ringiovaniti. Federer che vince dopo un sacco di tempo, 11 anni che non vinceva il Master 1000 a Miami, in finale contro Nadal, e per Federer è il terzo successo consecutivo. E aspettiamo Parigi con grande, grandissima voglia. Grandissima attenzione. Allora, grazie Carlo Genta, che ritroviamo come sempre alle 14 in tutti i convocati, con un po' di ritardo il traffico. Poi ci ritroviamo, torneremo a Budrio per insomma questa rapina finita con la morte del barista, e parleremo anche dell'inchiesta del Sole 24 Ore dedicata a Londra come capitale del riciclaggio. Siamo sempre in diretta anche sulla nostra pagina Facebook, www.facebook.com/effettogiorno. Potete scrivere anche là se volete. A tra poco. OneExpress.it, il pallet network italiano che viaggia in Europa, vi presenta Effetto Giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezia. Nella prima parte della trasmissione abbiamo parlato dei dati sulla disoccupazione, di quello che è successo a Budrio e tra un attimo ci torneremo, dell'uccisione di un ragazzo fuori da una discoteca a Brescia ed è stato arrestato l'assassino, il presunto assassino, e ha confessato, del voto in Serbia, del Partito Democratico e del voto nei circoli per la segreteria. E adesso iniziamo la nostra seconda parte della trasmissione. Fatevi dire una cosa però, insomma, qua se scriviamo o se diciamo, se confondiamo l'Austria con l'Australia non arriva nemmeno un SMS. Se il nostro Carlo Genta, piccola sbavatura, dice che si gioca Sampdoria-Inter invece di Inter-Sampdoria, pioggia di messaggi, ragazzi, su, un po' di pace, un po' di pace. Sì, si gioca a San Siro questa sera, Inter-Sampdoria. Angelo Mincuzzi del Sole 24 Ore, buongiorno, ciao. Buongiorno. Per parlare di un'inchiesta che firmi insieme a Roberto Galullo, della quale oggi vediamo la prima puntata e che vedrà altre tre puntate, se non erro, nei prossimi giorni, e che è dedicata a Londra. In queste ore si parla molto ovviamente della Brexit, è stato attivato la settimana scorsa l'articolo 50, ed è difficile, scrivete voi, che Londra, nonostante la Brexit, non rimanga una sorta di paradiso per il riciclaggio di denaro. Sì, Londra lo è già, cioè, intendiamoci bene, Londra lo è già da tanti anni. La Brexit, secondo le opinioni delle persone che abbiamo sentito anche a Londra in questi giorni, potrebbe aumentare questa connotazione della City, perché nella City arrivano quantità enormi di denaro ogni giorno e sono naturalmente denaro lecito, denaro illecito. Il denaro illecito potrebbe aumentare dopo la Brexit, è un rischio, nessuno chiaramente lo sa con certezza, ma il timore è proprio questo. Ci dai la dimensione della, naturalmente è denaro riciclato, quindi per definizione non puoi avere delle certezze su questo, però c'è qualche numero che ci può aiutare a capire? Sì, sono i numeri di un rapporto della National Crime Agency di Londra, cioè l'agenzia anticrimine del Regno Unito, e loro parlano di circa 105 miliardi di euro all'anno. Si tratta chiaramente di stime, come dicevi tu, nessuno ha la certezza, ma chiaramente si tratta di stime prudenziali, perché considerando la grande quantità di soldi che entrano, che affluiscono nella City e a Londra, 105 miliardi probabilmente sono una dimensione piccola rispetto alla effettiva quantità. Questo nessuno chiaramente può dirlo, può saperlo. Giusto per dare un'idea ai nostri ascoltatori, come proseguirà questa inchiesta, Angelo? Allora, noi domani sul sito, sempre del Sole 24 Ore, avremo una lunga intervista a Nicola Gratteri, procuratore della Repubblica di Catanzaro, che ci parlerà proprio di questo aspetto, cioè del rischio Brexit e del fatto che le mafie intese a 360 gradi, non soltanto le mafie italiane, potrebbero trovare giovamento, come dire, trovare a Londra nuovi canali per riciclare, soprattutto nell'immobiliare, i soldi illeciti. Allora, questo e poi altre puntate successive. Intanto grazie ad Angelo Mincuzzi per essere stato con noi del Sole 24 Ore. Trovate tutti i dettagli sul Sole 24 Ore oggi in edicola e anche nei prossimi giorni, naturalmente. Adesso proseguiamo con il nostro più tradizionale giro per l'Italia. Andiamo a Budrio, dove la storia ormai la conoscete. Un barista è stato ucciso in quello che appare essere al momento un tentativo di rapina. Si sta indagando, si ricerca, lo abbiamo raccontato, quello, o almeno queste sono indiscrezioni di stampa che circolano in queste ore, un ex militare dell'Est. Saluto Giulio Pierini, che è il sindaco di Budrio. Buongiorno. Buongiorno. Allora, come la leggete la cosa? Perché è una comunità molto pacifica la vostra, no? Pacifica, con un'alta qualità della vita, servizi, territorio curato, un livello anche di sicurezza che non dà spazi sostanzialmente al clima e alla percezione di un'emergenza, e nemmeno adesso, lo dico anche se a poche ore di un fatto del genere, naturalmente le parole che stiamo usando sono altre anche rispetto al tema della sicurezza, la certezza della pena, però lo dico qui, l'emergenza sicurezza non c'era e non c'è sostanzialmente, si invocano I numeri sono numeri positivi nostri e sono soprattutto legati a reati contro il patrimonio, ecco. Ricordiamo tra l'altro agli ascoltatori che non sono solamente i vostri numeri che sono positivi, perché certo. I dati a livello nazionale indicano che complessivamente i reati di questo tipo, anche i reati predatori e anche le rapine, sono in calo anche piuttosto netto, insomma, mediamente, però insomma ci sono anche prego. Aggiungo una cosa: le rapine qui da noi era diverso tempo che non se ne sentiva proprio parlare, ecco, non solo in calo, non se ne sentiva proprio parlare. Quello che noi abbiamo ridotto qui sono i reati, soprattutto i furti nelle case, che erano molto diffusi e che si sono ridotti fortemente. Però ecco, rapine e scippi qui sono diversi anni che non ci sono. Ecco. Senta Pianini, si invocano nuove norme, soprattutto certo. Sulla legittima difesa, come la leggete dalla... Ma la leggiamo partendo da un'idea, cioè quella per cui intanto il sentimento di rabbia, soprattutto in queste ore, in questi giorni, il sentimento di rabbia, ma anche il sentimento di sete di giustizia personale, lo chiamo così, è un sentimento, qualcosa che è naturale e anche comprensibile dal mio punto di vista, dal punto di vista di tanti di noi. C'è però una cosa che va detta: siamo in uno stato di diritto e noi ci dobbiamo affidare a una giustizia corretta, una giustizia giusta, efficace, perché se ci sono pene efficaci e certe, probabilmente non c'è l'escalation. Parlo di pene anche per reati che vengono considerati minori, ma che non sono poi così piccoli, sono comunque cose gravi, anche solo contro il patrimonio. Se questo c'è, non c'è l'escalation. Se invece si esce di prigione dopo 2 ore dall'essere stati trovati a fare un furto in una casa, è chiaro che l'escalation è, da un lato, disfiducia verso le istituzioni e la giustizia, e dall'altro è l'escalation di quel criminale che dice: beh, allora posso anche spingermi oltre. E quindi è evidente che in questo c'è una spirale che va indietro invece che farci andare avanti, dal punto di vista anche della percezione della sicurezza, non solo della sicurezza reale dei cittadini. Io la leggo così. So che si stanno riscrivendo norme rispetto alle pene minime di questi reati considerati minori, e so che si sta lavorando su definire bene che cos'è legittima difesa e che cosa invece è eccesso di legittima difesa. Però qui ci vuole anche una comunicazione chiara da parte di chi decide, quindi una legge chiara o comunque norme molto chiare, perché se questo limite non è chiaro, il cittadino è evidente che rimane in balia di re. Sì, e il tema è esattamente questo, il problema è esattamente questo, a prescindere da come la si pensi, cioè ci vogliono norme più restrittive dal punto di vista della possibilità di difendersi legittimamente in casa propria o nel proprio negozio esercizio, o dall'altra parte si pensi invece che vada ampliato questo diritto a difendersi, l'importante è che ci siano delle norme un po' più chiare, perché abbiamo visto che questa cosa viene spesso affidata, no, per così dire, all'interpretazione dei giudici, che ci deve essere sempre, dopo molto tempo. Però a volte da un grossi margini di incertezza. Io la ringrazio, grazie a Giulio Pierini, sindaco di Budrio, anche per la sua chiarezza e per il quadro politico un po' più generale rispetto a quello della singola città. Adesso andiamo a sentire cosa succede sui mercati e poi ci ritroviamo subito dopo. Effetto giorno. Effetto giorno, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezzi. I nostri titoli: cala la disoccupazione all'11,5%, un dato che però sconta l'aumento del numero di inattivi. A Budrio, dopo l'assassinio del barista, si cerca un ex militare dell'est con precedenti per rapine nel ferrarese. In Serbia vince l'attuale premier Vucic alle presidenziali, alleato della Russia ma europeista convinto, passa al primo turno. Il PD nei circoli, vittoria netta di Renzi con quasi il 70% delle preferenze, e ora arriveranno le primarie. La borsa. Fineco, la banca che semplifica la banca, vi presenta Effetto giorno. Ed eccoci di nuovo, abbiamo veramente pochissimo tempo prima di dare la linea a Mario Platero. Come sapete, la puntata è lunedì, una puntata un po' più corta, solo un paio di risposte, per questo abbiamo il tempo, ad ascoltatori che ci scrivono via SMS, via WhatsApp. Uno, riferendosi all'intervista che abbiamo fatto col sindaco di Budrio, ha parlato di reati minori il sindaco di Budrio, ma non si riferiva alle rapine, si riferiva alla depenalizzazione di reati minori e più piccoli. In realtà per le rapine si parlava della necessità di un inasprimento. Per quanto riguarda l'ascoltatore Riccardo, che dice che chiede se si sono ridotti i furti, oppure più verosimilmente le denunce dei furti, visto che tanto ne beccano poi uno su 100 dopo pochi giorni e già di nuovo in giro. Questo non lo sappiamo, e non sappiamo se sia verosimile che sono calate le denunce e non sono invece calati i furti o calate le rapine. I dati indicano questo, e gli unici dati disponibili che abbiamo sono evidentemente quelli sulle denunce. Quelli sulla percezione o su quanto la gente effettivamente non denunci, evidentemente non ne abbiamo. Platero.